Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Il governo non ha intenzione di mettere mano alla riforma delle intercettazioni. Ci sono molti magistrati che sono molto seri nell'utilizzo delle intercettazioni. Chiariamoci subito, le intercettazioni servono, certo che servono, per scoprire i colpevoli. Tutte le vicende familiari, tutti i pettegolezzi invece sarebbe meglio non vederli sui giornali. Quindi, a differenza del passato, quando i politici cercavano di evitare di essere interrogati, si inventavano i legittimi impedimenti, ora c'è gente al governo che dice prego, lavorate, che dice ai magistrati lavorate di più, non lavorate di meno. Noi speriamo che i magistrati arrivino a sentenza, che facciano finalmente giustizia in Italia. Se c'è qualcuno che ruba, lo voglio sapere, per mandarlo a casa e poi in carcere. Ma avete notato? Non so se si sentiva perché magari siete in macchina, siete in movimento, c'è rumore di sottofondo. Mentre Renzi parlava al TG5 in un giardino, ci sentivano gli uccellini sotto. Gli uccellini proprio allegri, contenti, che canticchiavano. È interessante. La parte più nuova dell'intervista, la parte più interessante, devo dire. Anche perché, ragazzi, uno si sveglia in questo lunedì 11 aprile e scopre che da 20 anni, io non so, forse da 30, in Italia si parla di queste cose qua, la riforma delle intercettazioni, le intercettazioni, la magistratura, siamo un popolo di intercettati. O per carità, non sto dicendo che è come con Berlusconi, anzi Renzi fa sapere io non c'entro niente con Berlusconi, eccetera. Però che noia! Che noia! Che noia, che barba, che barba, che noia, che barba, che noia, che noia, che barba, ve ne ricordate, eh? Sandra e Raimondo, mamma mia, basta, ma basta! Ma in Italia si chiacchiera di tutto, inutilmente, nel senso che se ne parla e poi non si fa nulla. Ma basta! Saluto un ascoltatore che ci scrive dagli Stati Uniti. Mi avvio verso casa, mi preparo ad ascoltare la tua rassegna stampa prima di andare a dormire. È vivo. Ciao, live da Luca da New York. Ciao Luca. Stai lì a New York. Che qui in Italia si parla di una novità incredibile, il rapporto tra politica e magistratura e le intercettazioni. Salutiamo Giorgio e Marco, i fornai di Ravarino City, Ravarino City, in onore di New York, giustamente anche loro si firmano da Ravarino City. Però questa pagnotta rossa, insomma, potevate farla meglio, potete studiarla meglio, avete tempo ancora fino a mercoledì per la rossa. Devo salutare Peter Bescapè in regia. Arriva! È il ci arriva Alex per il gol dell'1-0 al 18esimo. Milan uguale vittoria in Europa, c'è tutta la storia. Vittoria nel cuore. Peter, mi sa che hai visto fino al 20esimo del primo tempo tu. Ma va. Dai, fammi salutare, fammi convocare subito questo sfigato qua. Federico Novella. Buongiorno, sfigato non mi pare, insomma, senti chi parla, visto quello che è successo sabato. Tra l'altro ero allo stadio, quindi ho potuto vedere. Sì, ero allo stadio e dietro di me c'era Renato Zero. Beh, quindi eri davanti a Gagliani praticamente. Sostanzialmente e devo dire che ho portato fortuna. Ma io guarda, infatti vedevo il figlio di Gagliani a fianco a quest'uomo con la coppolina strana e dicevo ma che cacchio ci fa questo che assomiglia a Renato Zero? Scusami, quindi avranno inquadrato anche te, ma io ero concentrato su questo soggetto un po'. Esatto, forse ero io, non era Renato Zero. Quella coppolina lì, a meno che tu non sia diventato il sosia di Renato Zero, cosa che non sei. Cosa che ancora non sono, e beh, devo dire che è stata insomma una serata scoppiettante, sì, come possiamo definirla, Alessandro? Scoppiettante, senti, quante parole per definire una partita vinta di puro culo? Cioè, giusto Non abbiamo giocato al massimo, però, però abbiamo saputo cogliere l'occasione, vi siete distratti. Sei perfetto per candidarti alle elezioni. Scusa, per una volta che non c'era un rigore dubbio, un fuorigioco, un gol annullato. Ed è una spintarella su Abate, una spintarella sul 2-1. Guarda la spintarella, una dai, spintarella, su. Così. Piuttosto, quando è iniziato lo scontro politica-giustizia, tu che cosa facevi? Io facevo la prima media. Io non lo so, forse un po', io sono un po' più avanti di te negli anni purtroppo, ma insomma ero giovincello. Ma voglio subito nel salutare Marcella che dice baci da Bucarest e soprattutto una tipa che si firma dicendo Federico Novella, devo dirti che sei veramente figo con 50 o... Grazie alla signora, perché avrà più di 60 anni sicuramente. Io colpisco molto le donne sopra quella età, ecco. Va bene, ritirerà subito questo tuo complimento, però ci aiuterà a capire tutto. Un uomo che della giustizia vive, un uomo che della giustizia si abbevera, un uomo che è il nostro candidato sindaco di Roma, Carlo Rienzi. Buongiorno. Avvocato, evviva. La giustizia impera in questo paese, purtroppo. L'ingiustizia. Sì. Carlo Rienzi aveva le braghe corte quando si parlava di intercettazioni e di riformare la giustizia, credo, no? No, era già grandino. Ho partecipato a questo dibattito proprio dall'interno. Ma Renzi è come Berlusconi, è meglio, è peggio. Oggi ci sono i titoli più belli. Intercettazioni, non si cambia. Oppure... Renzi alle toghe, lavorate di più. Il giornale invece Renzi si arrende ai magistrati. Il giorno Renzi ai giudici, siate seri. Ognuno... Diciamo una cosa, le indagini in Italia si fanno solo con le intercettazioni. Cioè non si studia, i magistrati non studiano. Studiate di più. Il concorso, Renzi. Come fare le indagini in modo diverso dalle intercettazioni. Quindi questo è un dato di fatto e sono troppe e sono usate anche in modo non sempre legale. E quello che fa sorridere è che quando ci cascano dentro quelli di sinistra dicono che non vanno bene, quando ci cascavano quelli di destra è assurda, no? È ciò su cui si basa il nostro paese, la politica. Ma la gente mica è cretina, scusa, che hanno proprio la faccia come... Come la vittoria della Juve, insomma, c'ha proprio la faccia come... più o meno. Però scusami, ha ragione, cioè per 20 anni uno può amare e odiare Berlusconi, ma per 20 anni Berlusconi ha detto... intercettano troppo, non si può più telefonare, e a sinistra ce ne fosse stato uno che abbia detto ma però in fondo forse qualcosa di giusto lo sta dicendo, se ne accorgono adesso un po' in ritardo. Però adesso quelli di Berlusconi dicono il contrario, quando questi si lamentano quelli dicono no, va bene le intercettazioni, quelli di destra diciamo che sono un po' in difficoltà ultimamente. Guarda, Federico Novella, parli come il giornale, carta stampata proprio, la pagina 2, capriola di Repubblica, tuonava contro il bavaglio, adesso scopre la privacy. Sì, poi voglio dire, devo dire, poi alcune cose di Renzi sono un po' strane, cioè dire che i magistrati devono lavorare di più perché altrimenti non vanno a sentenza mi sembra una roba un po' strana. Questo vuol dire che la lentezza della giustizia e il carico di processi che non riusciamo a smaltire dipende dal fatto che i magistrati sono dei lavativi, dei pelandroni, sì. Non lo so. Però diciamo anche che alle due la maggior parte se ne va a giocare a tennis. Chi non lo farebbe? Ce ne sono alcuni stacanovisti e bravissimi che fanno un sedere così, ma la maggior parte stanno lì, delegano tutte le indagini alla polizia, mm-hmm. lasciano fare le intercettazioni e aspettano poi di leggere quello che arriva in rapporto. Oh. E nella media dei dipendenti. E così l'avvocato Rienzi si è giocato anche il voto dei magistrati di Roma. Ma che mi importa a me del voto? Si candida sindaco a Roma. Come sarebbe? Abbiamo una notizia su Roma. Attenzione. Preoccupante. Che hanno fatto i medici generici 1000 visite al giorno a dicembre, sì, a Roma per malattie respiratorie, per il problema delle polveri sottili e dell'inquinamento. Allora abbiamo ottenuto, e questa è una bella notizia, sì, da Raffaele Guariniello, che è il massimo esperto in Italia, magistrato in pensione, sì, vedi che non siamo nemici dei magistrati, sì, di istituire a Roma un osservatorio sulle malattie professionali dell'ambiente da parte del nuovo sindaco, purché sia però abbia poteri effettivi di intervento, e noi l'abbiamo subito girato, adesso lo giriamo a tutti i candidati, tutti, quindi o noi o loro hanno un'opportunità finalmente di cercare di prevenire a Roma questa terribile infezione, epidemia che è dovuta al traffico, alle polveri sottili e quindi all'inquinamento. Ricordiamo il programma di Carlo Renzi, tutti in giro con i mezzi pubblici, gratuiti, perché risparmieremo alcune ore, gratuiti, sì, nelle ore di punta, e quelle che contano di più. Bravo. Federico, capito? Tu che sei in tangenziale adesso, stai inquinando, sei un inquinatore. Non posso andare a Colonia in bicicletta, come faccio? Lascia fare. appunto, Renzi, come fa Carlo, Federico Novella? Io abito, diciamo, nell'Interland. Diciamo a 15 chilometri, no, no, no. 15. Non abbiamo mai fatto le metropolitane come si doveva, manco riusciamo a fare. Ho capito, ma la metropolitana dove sta Federico Novella non arriva. Ma ci dovrebbero essere gli autobus veloci come per Federico Novella, città europee, che ti portano dove c'è la fermata della metropolitana e lì arrivi. Il Novella Bus. Ho capito, però Carlo, ma io quando mi devo svegliare, se devo andare a prendere la metropolitana? Alle 4:15 con la tua bella valigettina. Con la tua bella borsettina alle 4:15. Che arrivo bello fresco, no? Cioè, capito? ti metti. A quell'ora poi si circola bene. Esatto, alle 4:15 manco trovi traffico. Però vogliamo dirlo, tornando, diciamo, all'argomento principe, che le intercettazioni sono fondamentali per fare le indagini, diciamolo, perché non l'abbiamo ancora detto. Però Renzi dice che ormai si delega tutto a quello. Ma non è giusto questo. Una volta si metteva la polverina sui tavoli, Sherlock Holmes, no, adesso sembra una battuta. Pensate che un magistrato sa andare a vedere le impronte o sa andare a vedere una stanza come fa il Montalbano e capire che c'è qualcosa che non va in quell'ambiente. Cioè adesso si attaccano, le prove. Dice intercettate tutto e poi la chiedono solo il permesso di intercettare. Da me è una cosa che dà fastidio. Tanti anni fa mi hanno intercettato per un processo, mettendo nel provvedimento che era perché si faceva traffico di stupefacenti, perché c'hanno i moduli scritti così, perché è l'unico modo per intercettare questa è la famosa questione traffico di stupefacenti. E com'è andata poi con la come andiamo a sguattere del Guatemala in queste intercettazioni, caro Renzi? Sguattere del Guatemala, certo, poverina, adesso è tutta l'amore, ma il ministro non deve cedere all'amore, alla passione, non deve stare lì a dire ti prego dammelo, perché sono esseri umani, sono uomini o donne come sono uomini e donne anche loro. Ma un uomo e una donna che si mette a fare il ministro deve allontanare quelle che sono le influenze dei sentimenti, non è che non deve amare, deve far seguire all'amore. Su questa ragione, dice però cioè può amare, ma non è che può cedere alle, alle pressioni. Non è che in cambio dell'amore l'appalto, ma che stiamo a scherzare? Scusate, che vergogna. Che vergogna, non si fanno queste cose. Se intercettassero me e Milan, che cosa uscirebbe? Soprattutto me e te, cioè proprio noi due, cioè, nel noi senso due noi nelle le nostre cose che ci diciamo noi al telefono. Nelle guarda, nostre proprio conversazioni. Ma voi non potete dare appalti a nessuno, spero, no? Ma no, ma noi è una noia assoluta proprio, cioè no, però, per me però, però c'è gente che va allo stadio davanti alla Renato Zero con la coppola, con la coppola, sono cose che ti segnano. Esatto. Attenzione però, arriva l'ammissione del candidato sindaco di Roma, che non è Carlo Rienzi. Ha tra l'altro suggerimento Rienzi oggi, se prende tutte le pagine dei giornali, tutte. No, tutte. E le modifiche aggiungendo una I, c'è Renzi, mettiamo Rienzi e ci abbiamo titoli di prima pagina. È la I che fa la differenza. Ci abbiamo le prime pagine dei giornali tutte dedicate, va solo messa un aggiunto, una I, eccetera. Ma il candidato sindaco di Roma, Bertolaso, si è alla fine manifestato da Lucia Annunziata, dove doveva andare domenica scorsa, ma poi è arrivato Renzi, per l'appunto, ed è stato spostato, quindi di una settimana, e Bertolaso, dopo profonda riflessione, anche accurata riunione di famiglia, ci tiene a far sapere che... Le posso anche dire che mia moglie, dopo che ha letto il programma che sto predisponendo, mi ha detto: sta tranquillo che voterò per te. Quindi da questo punto di vista, però, almeno a mia moglie, sono riuscito a far cambiare idea. E anche le mie figlie, di questo sono anche sicuro. Moglie e figli, sono quattro volte. Sono tre volte. Ancora il programma e non esce manco uno di programma. Infatti, il programma, cioè quello del Codice. Raggi e Giacchetti, avete visto, litigano perché 20 anni fa quello stava con Rutelli, che stava con quell'altro che poi ha rubato, eccetera, eccetera. Ma deve fare questa una campagna elettorale su Roma. Vabbè, ma ci saranno i programmi prima o poi. Credo che oggi Marchini... Guarda, quelli che non votano continueranno a non votare. Vabbè, ma lo dovranno preparare uno straccio di programma, no? Da qui a giugno. Non siamo ancora sicuri che i candidati siano questi. Non è affatto certo che siano questi. Comunque noi oggi abbiamo fatto partire la denuncia di chi non dà lo scontrino fiscale a Roma. Attenzione, questa ce la dice tra un attimo, dopo il traffico, la denuncia, no, questa attenzione, amici di Roma che in questo momento siete in un bar a prendere un cornetto. Se non prendete lo scontrino dopo il traffico, Carlo Rienzi vi dice, Carlo Rienzi, forse sindaco di Roma, forse futuro sindaco di Roma, vi dice che farà di voi. Scusate Milan, ma è questa libertà di stampa? Chi ci impedisce di sentire l'intervista del figlio di Rina, no? Che dica quello che vuole, è l'intervista del figlio di Rina, è un mondo anche quello. Ma no, ha preso i soldi, il padre ha preso i soldi da Vespa, con quei soldi ci paga l'avvocato per il figlio, non ci siete ancora arrivati, forza, forza! Minchia, Milan, stamattina hai tirato fuori il Gabbasisi, bravo, bravo, mi piace. Bravo Mela. È vero che la carta costa, ma anche il tempo alla radio costa. Dillo al tuo amico Luciani. Oh, non ci credo, ero un fan sfegatato di Radio DJ, ma mi sto ascoltando i podcast di Radio 24. 24 mattino, incredibile. Alessà, per fortuna ci stai tu che ci dai la sveglia, sennò tutti i giorni sai che sonno. Non mi parlate di sonno oggi, che ieri eravamo al Manzoni con Leonardo Manera, Oscar Giannino, risultato a letto all'1:30 e Ale, siamo qui con Federico Novella, pronto tra poco a Mattino 5 alle ore 9 in punto, e il nostro Carlo Rienzi. Che ci facciamo, Carlo Rienzi, allora, a chi non prende lo scontrino? Allora, intanto decapitiamo. L'83% degli esercizi o non dà lo scontrino fiscale. O lo dai in modo irregolare, ma mai capitato? Sì, non è obbligatorio ormai per legge. Ti danno per un foglietto che dice non vale come scontrino fiscale. È un gran classico. E non prendete lo scontrino fiscale. Beh, uno deve dire, scusi lo scontrino. Ma la gente si vergogna, per cui noi abbiamo fatto un una specie di spilla da mettere. La spilla. In cui prego dammi lo scontrino, c'è scritto. Beh, bellissimo, e così non ti vergogni. Sul mio blog dello scontrino. www.carlorienzi.it, basta anche in anonimo denunciare il negozio, l'esercizio ha dato lo scontrino e noi provvediamo ad andare avanti. Che gli fate? Gli bruciate il negozio? No, lo denunciamo all'Agenzia delle Entrate, perché siccome il 117 il governo lo ha affossato, vi ricordate il 117? Sì, sì, come no. Il 117 era una cosa utilissima, sono 30.000 telefonate al mese. Sì. Poi hanno detto, no, non basta, devi venire qui a firmare l'esposto, quindi praticamente non telefona più nessuno. Vabbè. Allora noi quindi ci facciamo portatori. Che dici? Che dici, Federico? No, quindi in pratica io la mattina posso essere multato per lo scontrino e poi mi costringono anche ad andare a casa in autobus, anche giornata di merda, proprio una roba. Anche è un programma contro i cittadini, sì. Bisogna fare sacrifici e purtroppo rinunciare anche ai privilegi e alle cose. Infatti te l'ha detto però subito Federico, è un programma contro i cittadini, è dal primo giorno, l'ha detto, è vero. L'ha detto con sincerità. Dal primo giorno, contro i cittadini, sacrifici, se volete fare i sacrifici bene, se no e non mi volete votare, com'è Renzi? Non me lo date. Grande, un grandissimo. Con coraggio. E io infatti sul libro gliel'ho chiesto, ma guarda che così non la votano. Ma chi se ne fotte? Chi se ne frega, vero, tutti vero. Quanti stanno a promettere questo mondo e quell'altro, io invece no. Coerenza, coerenza, caro Federico. Abbiamo un programma per dare soddisfazione entro 48 ore ai romani che segnalano un distretto. Questa è la prima, questo lo facciamo sicuramente, però bisogna che loro facciano. No, scusa, mi dicono questa però, grandissimo Federico Novella, ieri campione di caduta libera da Gerry Scotti, non è vera? No, è vero. Sei andato in caduta libera di Gerry Scotti, grande. No, perché c'è la puntata dedicata alla fabbrica del sorriso, quindi è tutto per beneficenza. Il campione è durato pochissimo perché è stato botolato quasi subito, però ci ho provato. Bravo, allora va a tuo merito, giusto. Che fai oggi alle 9, tra l'altro? Allora, oggi parliamo di questa cosa degli 80 euro le pensioni minime, che in realtà è comparsa e scomparsa improvvisamente, certo. Non è stata neanche inserita nel DEF, quindi vogliamo cercare di capire se davvero si può fare questa cosa oppure se è una promessa elettorale. Ma infatti è incredibile questa cosa. Vera? Vero? Ma non lo so, secondo me è stata una promessa così, che una voce dal senso fuggita, non lo so. Lo scopriremo. Qualcosa arriverà, secondo me da qui a giugno qualche prebenda. No, esatto. Invece ieri che è successo? Mattarella, capo dello Stato al Vinitaly, dice che per facilitare anche il vino bisogna aprire le frontiere, nel senso commerciale, vendere vino in tutto il mondo. Cioè, dice questo Mattarella. I numeri che in questa giornata sono già stati ricordati ne sono testimonianza, conferma di come il destino dell'Italia sia legato al superamento delle frontiere e non al loro ripristino. Al superamento delle frontiere e non al nuovo ripristino. Non dice una parola sui morti di alcol, soprattutto i giovani che vanno in coma etilico. Osannare il vino e l'alcol senza dire almeno una parola, di dire bevete responsabilmente. Perché i coma etilici stanno diventando, soprattutto nelle grandi città, e sabato sera. La polemica era un'altra, che Salvini, sentito questo, ha detto è venduto ai migranti. Ma no, ma voleva far vendere un po' di vino. Vuole far vendere solo un po' di vino nel mondo. Vabbè, forse dovremmo davvero bere tutti un po' meno, visto questa polemica. Esatto, forse l'avvocato Renzi ha ragione. Dovremmo un bicchierino di meno, secondo me gioverebbe. Poi insomma, al Vinitaly un bicchierino è facile, no? Che lì giovani poi restano influenzati da queste cose. Mattarella lo rispettano, gli piace. Quindi con Renzi sindaco a Roma, con Renzi con Renzi sindaco solo Chinotto, e soprattutto conquistiamo anche il Quirinale. Insomma, Vabbè, quello è il passo successivo. Prima sindaco e poi al Quirinale. E ricordate, se proprio non vi sta bene il programma di Renzi, non lo votate, chi se ne frega, cioè, come dice il nostro presidente del Codacons. Dai, io vi devo salutare, Carlo Renzi, grazie, e Federico Novella, ti ritroviamo alle 9 a Mattino 5 e prossimamente su questi schermi con Renato Zero. Ma come sta Renato Zero? T'ha posto, t'altro? Ci hai parlato? A me no, non ci ho parlato. So che doveva fare un concerto a Milano. Sorcino, perché credo che sia romanista lui. Infatti, è quello. Io dicevo, ma chi è quello che assomiglia vagamente a Renato Zero vicino al figlio di Galliani? Boh, e sono andato a dormire con questo mistero. Ciao. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti e ricordate che la 154esima settimana per abolire le province è cominciata e siamo qui. Siamo qui, cari ascoltatori, a leggere i giornali. Oggi parleremo un po' di immigrazione, avremo ospite il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Compatcher, questo alle 8:40. Forse si chiude la frontiera, così vogliono alcuni paesi come l'Austria, tra Brennero e Italia. Parliamo insomma di questo, vi racconteremo anche però che ci sono paesi, magari non lo sapevate, insospettabili, paesi come l'Arabia Saudita, paesi come la Giordania, che accolgono molti dei profughi. Ce lo racconterà Fabio Scacciavillani, che è Chief Economist all'Oman Investment Fund e si occupa anche ed è esperto di queste tematiche. Ma ne parleremo più avanti, ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 11 aprile, siamo qui e guardate i titoli, le prime pagine dei quotidiani. Ah beh, un tema si impone su tutti, eh? Non è l'apertura del Sole 24 Ore che apre sui redditi, la classifica del Sole 24 Ore, i guadagni reali provincia per provincia, i vostri redditi, cari italiani, 5 anni in retromarcia. Questo è il titolo non ottimistico in prima pagina. Solo Mantova e Bergamo in controtendenza, il sud arretra ancora. Ma poi dicevamo la notizia che si impone come apertura per molti quotidiani. Beh, un qualcosa che ci fa capire che in Italia si parla sempre di cose nuove, di cose mai sentite prima d'ora, no? Il rapporto tra politica e magistratura, per esempio, no? Si fanno dei passi avanti, sono 20 anni che di tanto in tanto ciclicamente si titola su queste cose. Intercettazioni, non si cambia, questo è il titolo del Corriere della Sera per l'intervista che Renzi ha rilasciato al TG5. Ma insieme a questo ci sono giornali che ognuno prende una frase di questa intervista. Allora, per il Corriere della Sera, appunto, intercettazioni non si cambia, dice Renzi. Il Messaggero, Renzi e i PM, basta gossip. La Stampa, Renzi alle toghe, lavorate di più. Il Giorno, Renzi ai giudici, siate seri. Il Giornale, invece, Renzi si arrende ai magistrati. Ah, questo è l'esordio della settimana. Le aperture diverse sono per Repubblica, l'allarme antimafia in cella, 500 minori a rischio jihad. Parla Roberti, il procuratore antimafia e anche antiterrorismo, ed è l'apertura dunque sulla lotta al terrorismo. L'Unità invece si concentra sulla polemica tra Mattarella, che al Vinitaly ha detto bisognerebbe, per vendere più vino, per il vino, aprire le frontiere anziché chiuderle, e Salvini, che ha risposto, è venduta ai migranti. Il titolo dell'Unità è La Sbornia, Salvini confonde bottiglie di vino con migranti e dice a Mattarella no frontiere, venduto. E poi Libero invece apre sulla casa, si torna a guadagnare i nostri soldi, i prezzi del mattone non scendono più, per chi ha risparmi è l'ora di investire, per gli altri è il momento di sfruttare i mutui ai minimi. Mentre il Fatto Quotidiano sul petrolio, un altro faccendiere stava sempre in Parlamento, questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Ma parliamo un po' di tasse! Visto che si parla di redditi sul Sole 24 Ore, c'è anche la classifica dei redditi che tra poco vedremo con Mauro Meazza. Intanto io voglio parlare anche di tasse, le addizionali IRPEF, perché oggi il Corriere della Sera fa un'interessante pagina, pagina 9, è Federico Fubini che la firma, e intanto ricorda che il 5 giugno si vota in 1370 comuni, tra cui grandi città, quindi 11 milioni di persone sono chiamate a votare. E magari ricordatevi e guardate questa tabella sulle addizionali IRPEF. Addizionali IRPEF che, ricorda Fubini, sono nate nel 98 come imposte vincolate, cioè dovevano servire per alcuni compiti precisi affidati ai sindaci, non come generica fonte a cui attingere per far quadrare in qualche modo i conti di una città. Indovinate invece in che cosa si sono trasformate? Appunto in questo secondo esempio, cioè delle fonti a cui attingere genericamente. I dati del Ministero dell'Interno dicono che quasi mai, infatti, è andata così, cioè di un'imposta vincolata ad alcuni compiti precisi. E ci sono città per città, ecco le addizionali. A Roma e Milano c'è il record delle imposte comunali. 154 euro pro capite a Roma, 143 euro pro capite a Milano. E tra l'altro i sondaggi della Commissione Europea, scrive ancora il Corriere, mostrano il paradosso italiano. Questo è il paese nel quale è saltata la correlazione tra il peso delle tasse comunali e la soddisfazione degli abitanti per i servizi che quelle imposte dovrebbero finanziare. Caso eclatante è proprio quello di Roma, no? Sapere che a Roma si paga la maggiore addizionale IRPEF d'Italia. A voi cittadini di Roma che in questo momento state andando in un ospedale, state per prendere un autobus, una metropolitana o qualsiasi, state per usufruire a qualsiasi servizio, di qualsiasi servizio che pagate con le vostre tasse, pensateci, eh? Questi bei 154 euro, che bei servizi vi danno in cambio. E comunque classifica del Corriere città per città, in calo invece come addizionale IRPEF Aosta, Cagliari e Firenze. Trovate comunque tutta la classifica sulle addizionali nel 2003, nel 2010, nel 2014. Potete fare il confronto e magari tenetelo in considerazione prima di andare a votare. Che ne dite? Tra l'altro, a proposito di tasse, questa è un'altra questione che rispunta così ciclicamente. Lo dice il quotidiano Repubblica, Roberto Petrini: il governo studia il taglio delle detrazioni fiscali, la classica giungla da 300 miliardi. Dal 2011 sono aumentate, da 720 sono diventate 799, tra deduzioni, detrazioni, agevolazioni, insomma le tax expenditures. A partire dalla prossima legge di stabilità Si pensa di studiarne il taglio, la riorganizzazione. Ma anche questo quante volte l'abbiamo sentita? Quante volte l'avete sentita? Dai! Repubblica dice che sono a rischio agevolazioni per circa 1 miliardo di euro e questi titoli ora si cambia. Non so. Lo mettiamo lì, come qualcosa che potrebbe capitare, ma chi lo sa. Mi hanno colpito invece alcune notizie di cronaca nera, devo dire, soprattutto una che fino a qualche giorno fa, come ricordate, era in prima pagina di tutti i giornali, il delitto Varani a Roma, consumato dopo un festino, evidentemente a base di droga, e poi i due principali accusati, cioè Marco Prato il socio Emanuele Foffo, accusati di questo omicidio di Luca Varani, vi ricordate, attirato in una casa e poi ucciso in modo brutale. Perché torna in prima pagina? E torna in prima pagina sul Messaggero perché oggi gli inquirenti fanno sapere, e lo racconta Cristiana Mangani, che nel telefono di Marco Prato ci sarebbero tantissimi nomi di VIP e di politici. Attenzione, proprio nel giorno in cui si parla ancora di intercettazioni, di indagini, di rispetto della privacy, delitto Varani, VIP e politici nei file del telefono di Prato. È il capitolo dell'inchiesta che rischia di aprirsi e deflagrare trascinando con sé chissà quante altre persone, legato ai cellulari e al computer di Marco Prato, PR di serate VIP. Perché pensate che per tutelare l'indagine, scrive il Messaggero, è sceso in campo il GIP che ha deciso non solo di secretare gli atti ma addirittura di criptare tutto in modo da rendere possibile l'accesso solo a chi ne ha diritto, lasciando traccia di qualsiasi consultazione. Mi verrebbe da dire, facciamo un test, secondo voi usciranno i nomi nei prossimi giorni sui giornali di chi è nel cellulare, nei computer di Marco Prato? Attenzione, perché tra l'altro nasce tutto dal fatto che l'altro coimputato, l'altro accusato dell'omicidio, Foffo, è lui che ha detto: ho visto sul cellulare di Prato cose e video orribili nei quali erano ritratti atteggiamenti pedofili, violenze sulle donne, bambini nel compimento di atti sessuali, e dunque è lui che ha detto ai magistrati: siccome non mi voglio dissociare, non fa parte di me tutta questa cosa, vorrei invece che controlliate il cellulare di Marco Prato. E gli inquirenti l'hanno fatto, e racconta il Messaggero, si potrebbe scoperchiare davvero qualcosa di orribile in quei cellulari. Mentre mi ha colpito molto anche questa notizia di cronaca che Carlo Macri mette a pagina 21 del Corriere della Sera, ed è questa: in coma dopo il parto perché l'anestesista detestava i rumori in sala operatoria. Succede a Catanzaro, dove quando era lei di turno in sala operatoria all'ospedale Pugliese, nome Pugliese a Catanzaro appunto, veniva abbassato il volume degli allarmi dei respiratori perché l'anestesista Loredana Mazzei, che tra l'altro nel frattempo è morta, anche se c'è un'inchiesta ma non c'è più, l'anestesista non sopportava il suono degli strumenti che avvertivano la riduzione della saturazione dell'ossigeno nei pazienti. E per non disturbare la sua sensibilità, una madre, la signora Caterina Viscomi, si trova in stato vegetativo all'ospedale di Crotone. Tra l'altro la donna è un'oncologa, è andata a partorire ed è entrata in coma in sala parto perché nessuno si è accorto che stava andando in debito d'ossigeno, perché appunto gli strumenti erano stati messi abbassati su manuale perché davano fastidio i suoni all'anestesista. Per la verità, il marito di questa donna in coma da 2 anni attende di sapere quello che è successo quella notte. Una prima inchiesta è stata archiviata, nel frattempo infatti l'anestesista è morta. Ma quello che mi ha colpito nel raccontare di questa notizia è che questa anestesista era descritta, questo almeno dice l'avvocato del marito della donna in coma, come una donna che aveva comportamenti ispirati al misticismo esasperato. Una volta prese dei bambini appena nati, li portò ai genitori e si inginocchiò dicendo: siamo tutti nelle braccia degli angeli. E ci sarebbero atti che dimostrano che questa anestesista non era più in grado di lavorare. Inviti al suo superiore affinché non venisse più assegnata la conduzione di nessuna delle sedute operatorie a questa donna che aveva bisogno di supporto psicologico e aveva appunto misticismo esasperato. Eppure era lì in sala operatoria ed è andata forse come racconta il Corriere della Sera. Ma siamo qui, ragazzi, non potevo non ritagliare questo spazio per il premio Mani sul Volante, l'articolo che mi fa pensare della giornata. Appena ho visto il titolo ho detto: ma come? Ma no, ma mi dicono che io prendo in giro, ma che le province in realtà sono abolite, in realtà bisogna aspettare il referendum confermativo per la riforma costituzionale, che le province in realtà non ci sono più. E poi uno apre pagina 8 del Corriere della Sera e legge questo titolo: le province adesso si chiameranno cantoni, così, cantoni. Eh sì, in Lombardia, racconta Lorenzo Salvia, le vogliono chiamare cantoni, come in Svizzera. In Piemonte, quadranti funzionali. In Sicilia, invece, un po' più creativi, liberi consorzi. In Friuli, Venezia Giulia, più macchinosi, unioni territoriali intercomunali. Eccolo qui, scrive il Corriere, il ritorno delle province, prima abolite, poi espulse, poi tolte nella riforma costituzionale, poi chissà cosa, intanto tornano i cantoni, dai. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il gran visir dell'informazione. Oh là là. E allora, cari ascoltatori, come detto, dobbiamo concentrarci su questo tema inedito, nuovo, mai sentito in Italia prima d'ora: il rapporto tra la politica e la magistratura. Sì, perché Renzi ha fatto questa intervista anche un po' bucolica al TG5, perché mentre parlava al TG5 c'erano sotto gli uccellini in sottofondo che cinguettavano, e Renzi ha parlato in una, al termine di una settimana molto complicata anche per il governo per via dell'intercettazione, dimissioni del ministro Federica Guidi, anche molti pettegolezzi, questo è vero, i rapporti personali e interpersonali della Guidi col suo compagno che sono finiti sui giornali, ha parlato appunto del rapporto con la magistratura. E è interessante vedere come i giornali prendono a spizzichi e bocconi una frase di Renzi, quella che più a loro interessa, per metterla in rilievo. E se uno legge i giornali, come dire, da una parte c'è il Corriere della Sera, Renzi, non metterò mano alla riforma. Sulle intercettazioni, il Premier dice, mai vicende familiari pettegolezzi, e sulle prime pagine dei giornali, sarebbe meglio non vederli. Comunque, non metterò mano alla riforma, e quindi uno sembra dire, beh, un rapporto abbastanza tranquillo con i magistrati. Poi diventa sul Messaggero, Renzi ai PM, basta gossip. Sulla Stampa, Renzi sfida le toghe, lavorate di più. Ma come? Insomma, sembrava abbastanza compiacente. Al Giorno, invece, il titolo è così. Renzi ai giudici, siate seri. Addirittura. E per il Giornale, invece, è tutto il contrario. Renzi si arrende ai magistrati. Allora, quale che sia la verità, voi andate a cercarla. Io posso solo dirvi che le varie rappresentazioni dei giornali sono un po' diverse. Certo, c'è questo retroscena che forse aiuta su Repubblica, Tommaso Ciriaco a pagina 12. Io non mi metto sul piano di dire blocchiamo le intercettazioni, questo non lo farò mai. Così Renzi ai suoi, in questo retroscena, tranquillizza in qualche modo il rapporto con la magistratura. Certo, non metto in discussione la libertà di stampa, non la metto in discussione e non scherziamo. La mia sfida è su un piano completamente diverso. Aggiunge Renzi, ma sono dichiarazioni non ufficiali, non l'intervista al TG5, ma il classico retroscena. Io, avrebbe detto Renzi ai suoi collaboratori, chiedo ai giudici di arrivare a sentenza. E infatti non metto mano alle intercettazioni. Insomma, faccio un discorso completamente diverso da quello che andava ripetendo Berlusconi. Oh, eccoci qui, vedete che siamo arrivati alla questione che da 20 anni non si parla d'altro, il rapporto tra politica e magistratura. Alla fine, nel retroscena, è spuntata la parola magica chiave Berlusconi. Tra l'altro, invece, il ministro alla famiglia Enrico Costa, che è stato per 2 anni vice ministro alla giustizia del nuovo centrodestra, e che anche all'epoca di Berlusconi invece invocava la stretta sulle intercettazioni, dice la stretta va fatta subito. Così intervistato da Liana Milella a pagina 13 di Repubblica, mi limito a ricordare, dice Costa, una data, 17 aprile 2007, la Camera approva a stragrande maggioranza un testo che poi si arenò al Senato. Lo stesso accadde 11 giugno 2009 col DDL Alfano. Il ragionamento, insomma, viene da lontano. Ci vuole questa stretta sulle intercettazioni. Vabbè, insomma, comunque il tema, come vedete, è molto fresco, molto nuovo, molto inedito e mai dibattuto in Italia. Alla prossima puntata vedremo. Che dire invece di quello che è successo ieri nel cortocircuito delle dichiarazioni politiche con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è andato al Vinitaly di Verona e ha detto che con il suo successo nell'export si conferma come il destino dell'Italia sia legato al superamento delle frontiere e non al loro ripristino, ma si riferiva al vino, al successo del vino, all'esportazione nel mondo. Subito Salvini, ripeto, in questo cortocircuito in cui da qualsiasi dichiarazione bisogna insomma attaccare la politica dell'aggressività, no? Non dei ragionamenti pacati, Salvini ha detto è venduto ai migranti, da qui le accuse, contraccuse, chi difende Mattarella, chi dice queste vilipendio del capo dello Stato, le critiche al leader leghista, l'unità che titola la sbornia riferita a Salvini, dice scambia bottiglie di vino per i migranti e via la polemica quotidiana che domani invece non ci sarà più. Rimarranno invece i migranti, questi sì. E ieri è stata una giornata molto complicata tutti i giornali raccontano di polizia che al confine tra Grecia e Macedonia ha sparato proiettili di gomma sui profughi, ha usato il gas, centinaia di feriti nel campo greco di Idomeni, dove la polizia macedone ha respinto i migranti al filo spinato. Si era sparsa la notizia che ci fosse un'apertura della frontiera, poi questa notizia è stata negata, o forse era una notizia che non era veritiera. Sta di fatto che la tensione è aumentata, i lacrimogeni sono spuntati e i macedoni, la polizia macedone ha respinto, anche usando proiettili di gomma, questo assalto al confine greco. Ne parliamo, e questa è cronaca perché oggi poi ne parleremo più avanti dalle 8:15 per cercare di capire se c'è davvero una soluzione europea, anche che cosa succede per esempio al Brennero, al confine tra Italia e Austria, dove si parla di possibile chiusura del valico. Questo vorrebbe almeno l'Austria. Però insomma, queste tematiche verranno approfondite, come approfondiremo la questione tra poco, sempre la segna stampa dell'ISIS, l'allarme dell'ISIS, i Panama Papers, tante altre notizie. Ma prima però, come dicevo, c'è la classifica sul Sole 24 Ore dei vostri redditi. Siamo andati a fare le pulci ai vostri redditi corposi, cospicui, come nel caso di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, eccolo qua. Buongiorno. Su questo allora vado a proporti subito gli endecasillabi del lunedì, caro Alessandro. Ecco. Oggi ti raccontiamo le tasse e il tasso che muove, anche se poco, l'inflazione, sì che il reddito tuo divien più basso e soffrono le province e la regione. Ed ora a trasmutarmi io vorrei in un cantante giovane di rap, allora in versi o in barre canterei che c'entra il nostro def con l'output gap. Se non comprendi niente malumore, che te lo spiega bene Bussi Chiara, che è chiara su quel Sol 24 Ore che ogni giorno i dubbi tuoi rischiara. Da Panama io tornai e da Frosinone e in ogni dove fu bottino pieno. Così non posso dir del tuo squadrone, se no do alle ferite altro veleno. Ma il tempo corre molto celermente, allora devo chiudere con un classico. Tu leggi norme religiosamente, che anch'oggi ti saluto col mio traffico! Alessandro Milan, il comico dell'informazione. E tu pensa a guidare, mani sul volante. Sei sempre il solito stupido. Eccolo lì, aspettavo giustamente la conclusione. Allora, dobbiamo parlare di questa che è invece l'apertura per Repubblica e poi sviluppata pagina 2 e 3. Intanto riguarda l'arresto del presunto altro attentatore di Bruxelles, l'uomo col cappello. Ve lo ricordate che nel weekend, dopo un primo falso allarme di una persona che era stata arrestata, poi non era lui, adesso pare sia stato arrestato questo Mohamed Abrini, e pare che abbia detto sì, effettivamente sono io l'uomo col cappello. Dai particolari, dopo l'arresto, emerge un qualcosa di abbastanza inquietante. Volevamo colpire Parigi durante gli europei di calcio. E beh, insomma, eccolo qui. Volevano colpire la Francia ancora, portando a termine il progetto ininterrotto con la morte di Abdelhamid Abaoud. Secondo la Procura federale belga, scrive Repubblica, pagina 2, i kamikaze di Bruxelles del 22 marzo sono stati costretti a organizzare un piano B dopo l'arresto di Salah Abdeslam. Il progetto originale era un nuovo attacco a Parigi, probabilmente durante gli europei, una sorta di bis del 13 novembre. Durante la sua breve fuga, Abaoud si era vantato di voler colpire un asilo e un centro commerciale. E così si scopre ora che anche i kamikaze di Bruxelles avevano nel mirino lo stesso luogo della Défense e l'associazione cattolica integralista Civitas, anche un'associazione cattolica integralista. Ma insomma, nuovi particolari dopo l'arresto da parte della cellula terroristica di Bruxelles. Tra l'altro, a fianco a queste notizie c'è un'intervista al procuratore antimafia Franco Roberti, che ha scritto anche un libro dal titolo Il contrario della paura, e lancia un allarme riguardo il possibile reclutamento in carcere di jihadisti in Italia. Così l'ISIS cresce in Italia. L'allarme di Franco Roberti, intervistato da Gianluca Di Feo su Repubblica. Secondo Franco Roberti, il problema è, per esempio, che ci sono almeno 500 giovani minori nelle carceri italiane in questo momento. Metà dei reclusi nei penitenziari minorili italiani sono musulmani, dice Roberti. In cella ci sono 500 ragazzi abituati a stare su internet come tutti i loro coetanei. Per questo non posso facilmente entrare in contatto con siti che predicano il jihad. Sono a rischio altissimo di radicalizzazione. In Italia pensiamo di correre pericoli inferiori ai francesi e ai belgi. Probabilmente è vero, dice Roberti, la comunità musulmana nel nostro paese è diversa, le seconde generazioni qui sono ancora adolescenti, ma se non interveniamo subito, tra 5 o 10 anni ci troveremo nella stessa situazione di Bruxelles o delle banlieue parigine. Cioè, avete capito bene, il procuratore antimafia dice: se non agiamo e non interveniamo subito, tra 5-10 anni ci ritroveremo con una situazione simile a quella di Bruxelles o di Parigi. Invece sono ancora problemi per Cameron. Niente, non ne esce da questi Panama Papers, non riesce a uscirne, perché Cameron ha fatto un gesto che, per la verità, dal punto di vista suo doveva togliere tutte le polemiche, lui che si è scoperto aveva soldi nella società del padre a Panama. Ma invece di liberarsi delle polemiche, perché effettivamente, come racconta Fabio Cavalera a pagina 15 del Corriere della Sera, Cameron ha fatto un gesto pubblico nuovo, un qualcosa che non molti politici hanno fatto, anzi una mossa storica la definisce Cavalera. Mai nessun premier britannico si era lasciato fotografare la personale ricchezza patrimoniale e finanziaria. Lui l'ha fatto, ha detto: vi dico tutto quello che ho, solo che questo rischia di diventare un boomerang per lui, perché dicendo tutto il proprio patrimonio, mettendolo in piazza, si è scoperto che la madre, dopo la morte del padre, gli ha fatto due donazioni da 100.000 sterline l'una. E queste 100.000 sterline non è mica quella cifra appena sotto alla cifra per la quale sarebbero partiti gli accertamenti. Casualmente due donazioni da 100.000 sterline, regalo della mamma, nascondono forse un giochino per rientrare nei limiti dell'esenzione fiscale e far rientrare dei soldi che non erano in Inghilterra nel momento della morte del padre? Questa è la domanda che si pone la stampa. Dunque, Cameron nei guai per la donazione della madre su 200.000 euro, non sterline, ma euro. Oggi riferirà in Parlamento. Anche per la stampa, un regalo da 200.000 sono diventate sterline. Allora, mettetevi d'accordo, secondo me saranno sterline, visto che si tratta di Cameron. Comunque, per il Corriere sono 200.000 euro, per la stampa sono 200.000 sterline, 200.000 di qualcosa, non so, scudi, 200.000 fiorini di non ci resta che piangere, qualcosa, 200.000 pezzi di plastica ha preso Cameron, che ora è nei guai per questa donazione. Vi segnalo che ci sono ancora tanti articoli dedicati all'uccisione di Giulio Regeni, alla rottura di fatto delle relazioni anche diplomatiche, o meglio, non rottura proprio, ma insomma è stato richiamato l'ambasciatore italiano in Egitto, e la rottura invece dei rapporti tra inquirenti. L'Italia per nulla contenta di quello che è la versione fatta trapelare dall'Egitto. Vi segnalo su questo Viviana Mazza, pagina 3 del Corriere della Sera. Intervista chi? Intervista Rasha, egiziana che ora vive un po' in fuga, ricercata, ha perso padre, fratello e marito. Chi sono questi padre, fratello e marito? Sono tre dei cinque della presunta banda che l'Egitto ha accusato di aver ucciso Regeni. Ricordate quella banda, a un certo punto la notizia, cinque uccisi sono loro, hanno fatto trovare alcuni oggetti, il passaporto, alcuni oggetti personali di Giulio Regeni a casa di queste persone. In realtà parla Rasha, che ha perso il padre, il fratello e il marito uccisi di questa presunta banda responsabile del caso Regeni, e dice: guardate che sono solo bugie, hanno infilato in casa i documenti di Giulio i poliziotti, non credete, cari italiani, a questa versione. E questa intervista la trovate a pagina 3 del Corriere della sera. E poi che dire, siamo in conclusione, vi segnalo una interessante inchiesta del Giorno, pagina 12 e 13, sulle gite scolastiche, tempo di gite per tanti nostri figli studenti. È la stagione delle gite e i controlli della polizia stradale sui mezzi, spesso gli autobus che vengono utilizzati per le gite, si scopre che è irregolare un pullman su quattro. Si parla del piano di sicurezza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Pubblica Istruzione, migliaia di infrazioni che sono già state scovate. Insomma, questo per la sicurezza dei nostri ragazzi è fondamentale. Ma eccoci qui, alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Ritorna Oscar Grazioli prepotentemente con il giornale a pagina 12 per informarci che in California, udite udite, dopo tanti cat caffè. Cosa sono i cat caffè? Quelli dove ti bevi un caffè e intanto fai le coccole al tuo gatto fusante. Fusante, così scrive Grazioli. Adesso è nato in California il primo dog caffè del mondo, dove ti porti il tuo cagnolino, il dog caffè. Ma chi se ne frega?